che arriva tutto questo freddo? Com'è che sento tutto questo freddo? Ma dove arriva tutto questo freddo? Com'è che sento tutto questo freddo? Diventa alternativa del cast. Ama il free jazz, grida Seabax. Film di truffo, fumetti di pass. Odia le modelle ma diventa una brazza. E adesso ha l'auricolare bluetooth. Sta bene ma teme Robin Hood. Slow food, flutti brut. New look, photobook. Da dove arriva tutto questo freddo? Com'è che sento tutto questo freddo? L'aria condizionata ha raffreddato la mia giornata. L'aria condizionata ha raffreddato la mia giornata. L'aria condizionata ha raffreddato la mia giornata. L'aria condizionata ha raffreddato la mia giornata. Ilaria dove? Adesso dove? La doppista al corteo con la maglia Dolce urlava: no, alla vostra merce! Mentre ingoiava cioccolata Nestlé. Con i capelli dritti a live di Misfits. Con antiproiettili a live di 50. È davvero influenzabile, credimi. Appena la vedi, subito ne approfitti. Vive la spiritualità evangelica, dianetica, culto di Ra. Culto di già, cambia culto di già. Dipende da cosa va in città. Lei non beve ma puzza di rum. Lei non fuma se non i cilum. Sa fine sai baba la setta di Moon. Ma ha l'anima di un angioletto di Toon. L'aria condizionata ha raffreddato la mia giornata. L'aria condizionata ha raffreddato la mia giornata. L'aria condizionata ha raffreddato la mia giornata. L'aria condizionata ha raffreddato la mia giornata. Quello che pensi di me. Tanto sono sposata. Pure. Sì, mio marito è il leader del fronte e sta costruendo lo spazioporto pugliese. Cosa diamine è uno spazioporto? Uno spazioporto è